per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come in silenzio. In attesa che ci raggiunga l'altra voce consueta dallo studio di questa trasmissione, ci avviamo a iniziare un nuovo appuntamento settimanale con Maldestra, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Questo bisogno di respirare perché tutto possa finire per non tornare. Con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi. E in attesa di risolvere qualche problema tecnico per avviare le prime corrispondenze, ancora qualche minuto di musica. Ancora un uomo, ma io uomo non sono più, e parlo come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, voi il vento mio. Tempo a tempo con la chiusura della nostra consueta sigla, la memoria dei Senza Sicura, possiamo andare a iniziare questo appuntamento settimanale con Maldestra. Lo iniziamo con una corrispondenza da quel di Reggio Emilia. Quello passato è stato un weekend particolarmente turbolento, almeno per quanto riguarda gli antifascisti e le antifasciste del Nord Italia. Dall'Emilia Romagna al Piemonte sono accadute numerosi fatti legati specialmente alla tenuta del territorio nei confronti dell'organizzazione Casa Pound, che sul piano nazionale, come sappiamo, gode dell'appoggio di sedi più o meno anche nei luoghi più, diciamo, impensabili, anche se appunto gruppuscoli a volte composti di pochi attivisti, ai quali comunque, come al solito, viene data forse più visibilità di quella che meritano. Questa volta invece una vera e propria provocazione. La notte fra venerdì e sabato scorsi, alcuni ignoti, dice il comunicato, ma insomma è abbastanza certo che si trattasse di attivisti di Casa Pound, date le firme che avevano lasciato, hanno danneggiato il laboratorio AQ16 di Reggio Emilia. La pronta risposta degli antifascisti, diciamo, la lascio raccontare direttamente dalla voce di Gianluca, attivista dell'AQ16 di Reggio Emilia, a cui appunto, se è in ascolto, pronto? Ciao, lascio la parola appunto per raccontarci questa giornata di mobilitazione antifascista di sabato scorso. Sì, ciao a tutti. Intanto sabato scorso la giornata è cominciata presto, verso mezzogiorno, quando ci siamo accorti di quello che era successo al centro sociale. Praticamente nella notte, sicuramente militanti di Casa Pound, perché hanno lasciato la firma lasciando degli adesivi di calci e pugni, la loro marca di abbigliamento e di cuore nero, il circolo di Roma, ma anche la canzone di Zero Ars, che hanno preso attacco alla facciata del centro sociale, hanno spaccato vetri, tirato sassi contro le porte, strappato manifesti, divelto le canale, no? che è stato per fortuna solo durante la facciata, però era solo l'ultimo di un sacco di danneggiamenti che da quest'estate vanno avanti al centro sociale, di più lieve entità, senza mai avere lasciato firme o roba, però è da quest'estate che subiamo attacchi non settimanali ma bisettimanali sicuramente, sì. E allora a questo punto abbiamo deciso di dire basta, anche perché c'era anche un manifesto del blocco, questa volta sono andati proprio oltre, hanno lasciato la firma pensando di essere magari forti o di godere di un'impunità di un certo tipo, e ci siamo organizzati con tanti altri compagni di Reggio Emilia che non ci stanno alla presenza di Casa Pound, con i quali avevamo già organizzato anche altri presidi, volantinaggi, roba così, e abbiamo dato un segnale di risposta forte, che comunque loro sono a Reggio Emilia, e siamo andati a chiudergli la sede, direttamente davanti alla loro sede che hanno in via Montefiorino, che anche il nome già ricorda la Repubblica Libera di Montefiorino, una delle prime repubbliche libere della Resistenza. E siamo andati là a fargli sentire che ci siamo, che loro non possono avere agibilità politica, che noi non, assolutamente non accettiamo questo. E vista tutta l'escalation di quest'estate abbiamo detto basta, e d'ora in poi sarà sempre più bassa. Anche perché questi personaggi qua, come dicevi anche tu, godono di una sovraesposizione mediatica che non ha precedenti, no? Sia per i movimenti di destra e Reggio Emilia, ma proprio in generale, anche perché non sono tanti, non fanno quasi nulla se non riportare le campagne nazionali che partono da Roma, e a Reggio Emilia non hanno presa, anche nel quartiere per esempio molti non sapevano neanche dell'esistenza di questa sede, che all'inizio doveva essere una libreria, no? Intitolata Gabriele D'Annunzio, l'eroe di Fiume, tutte queste cavolate qua, ma alla fine fondamentalmente adesso è trasformato solo in una sede politica, perché comunque è poco frequentata se non da qualche ragazzino, diciamo. E direi una sovraesposizione mediatica in qualche, che spesso e volentieri riequilibra poi il calo verticale del testosterone che comporta per i neonazisti, quando poi insomma la reazione è degna e giustamente rabbiosa. Insomma, è un po' il pianto che si diffonde da Napoli a Torino in questi giorni, tra l'altro con conseguenze che sono da vedere, dato che si è subito levato lo scudo del PDL a difesa dei giovani di Casa Pound, un po' diciamo confermando ragionamenti fatti più volte da questi microfoni rispetto all'organicità ormai di questa struttura come piccola federazione giovanile del partito di governo. Ora, queste, noi tante volte ci piace fotografare anche le città in cui si svolgono avvenimenti, specialmente Reggio Emilia è la prima volta che insomma, per fortuna evidentemente questo tipo di attenzioni non erano state fatte prima, però ci troviamo a questo punto a parlarne. Ci fa piacere anche capire quali sono le dinamiche che si creano all'interno del appunto della galassia della destra di governo e della destra appunto para di governo in qualche maniera, che è rappresentata da Casa Pound. Reggio Emilia siamo tutti un po' abituati a vederla da Roma come una delle province rosse d'Italia, almeno dal punto di vista culturale, eppure prima ci dicevi che non era proprio così a microfoni spenti. Sì, Reggio Emilia come in tutte le parti d'Italia naturalmente i legami col PDL ci sono figli di ex esponenti di AN confluiti nel PDL che sono dentro Casa Pound, hanno posti anche di responsabilità, abbiamo chiesto più volte conto anche di questa, di queste relazioni qua, visto anche che come sempre hanno una marea di soldi, la sede sembra addirittura che l'abbiano comprata, e spesso a difenderli sono proprio questi personaggi del PDL che montano su per difenderli proprio mediaticamente sui giornali. Reggio Emilia, tu dici di Reggio Emilia come città rossa, la percezione fuori è quella, no? Magari ancora perché qua il PD ha 52% e ci sono varie organizzazioni che si rifanno alla memoria storica, alla resistenza e tutto il resto, però Reggio Emilia purtroppo come molte altre città d'Italia, forse anche più di altre città d'Italia, ha proprio subito un cambiamento radicale negli ultimi anni. La Lega qua ha raggiunto 17% durante le ultime elezioni, e il leghismo sembra che nel giro solo di un paio d'anni si è radicato, oltre che nei palazzi della politica, si è radicato anche nelle menti e sta diventando mentalità diffusa. Proprio Reggio Emilia è una città che ha accolto negli ultimi anni 20.000 clandestini venuti a lavorare nei cantieri edili, cantieri edili che hanno trasformato la città da paesone di campagna in un cubo di cemento. E questo ha portato, grazie anche alle campagne leghiste, anche soprattutto a livello nazionale, ha portato a paura, terrore proprio nella gente, così da chiedere sicurezza e tutto il resto. In questo clima si è insediata la Lega Nord a livello proprio pesante e Casa Pound prova a lavorare, anche se in città comunque non ha grosso seguito, non ha grossa agibilità. Diciamo che più che altro in provincia c'è una zona, la zona delle ceramiche di Casagrande, che è una zona molto depressa ad alta densità migrante, dove invece lì ha un po' più presa, in particolare sui ragazzini. Ecco, questo è un po' il quadro di Reggio Emilia. E in questo quadro qua il PD non è esente da colpe, perché comunque segue, scimmiotta la Lega Nord e tutto quello che dice, dall'applicazione del decreto sicurezza di Maroni, sull'ordinanza della chiusura di kebab, rosticceria cinese, l'antidegrado in centro storico, fino a che il sindaco provò a vietare le manifestazioni nei weekend lungo tutta quell'onda delle manifestazioni di quest'inverno contro la guerra in Palestina fatta da Israele. Però, a parte questo, Reggio Emilia ha comunque ancora degli anticorpi, e a Reggio Emilia, proprio questo lo vogliamo dire chiaramente, questa ordinanza è stata rispedita al mittente, è stata rispedita a Maroni, perché grazie alla mobilitazione di piazza di centinaia di persone che, appresa la notizia che non si poteva più manifestare nel weekend, sono scese in piazza, addirittura sono volate anche le manganellate, cosa che a Reggio Emilia non si vedeva dagli anni 60, a parte il 7 luglio dove uccisero 6 compagni, anche dall'ultima volta che venne Almirante a Reggio Emilia. E grazie a questo il sindaco ha dovuto fare marcia indietro, ha rinviato l'ordinanza, non l'ha eliminata completamente perché comunque non se la sente, non sappiamo bene, addirittura non è un sindaco che parla molto, è un sindaco molto silenzioso, però comunque l'ordinanza è stata rinviata, è stata rispedita a Maroni, adesso grazie a quello Reggio Emilia si può manifestare durante il weekend. Senti, io direi che, leggendo il tuo comunicato, diciamo, l'unico aggiornamento lo dobbiamo aspettare a domani, all'assemblea pubblica che si terrà alle 21. Sì, a parte quello, comunque oggi sui giornali di Casapà hanno uscito, no? Anche come dicevi tu, piangendo come in tutto il resto d'Italia, addirittura come un cane ferito è arrivato a insinuare che noi stessi abbiamo devastato la facciata del centro sociale per avere un pretesto per poter andare là e seguire il disegno nazionale di cui parla Iannone, fino a voler fare, dicevano oggi, delle querele per diffamazione e delle denunce per danneggiamento e deturpamento della loro sede, una roba di chi ha la coda di paglia risponde in questa maniera, perché lo sanno benissimo chi è stato, cosa ha fatto, e sanno benissimo anche che risposta hanno ottenuto, che diciamo che non è la prima risposta in questo senso che ottengono in città, perché comunque la Reggio Emilia che vive la strada, che vive la città, di risposte ne ha già date e parecchie anche, e questa è stata una risposta pubblica, vera, reale, di presa di posizione di tanta gente, compagni antifascisti, e questa loro ne dovranno tener conto, e quindi si arrampicano un po' sugli specchi minacciando denunce, querele e robe varie, solo quello sono capaci di fare. Insomma, direi che a un anno da Piazza Navona si conferma quando all'epoca erano, insomma, a loro a rivendicare chissà quale natura poi di movimento sociale, poi insomma si dimostrano ampiamente quello che sono nel momento in cui sono appunto settimane che, tra l'altro, per gli antifascisti ci sono denunce e repressione, specialmente per questioni legate alla all'autodifesa da parte contro appunto proprio quella stessa organizzazione, che tra l'altro continua a piangere e a farsi diciamo promotrice di campagne, tra l'altro appunto invitando all'esplicita mobilitazione della polizia, dell'ordine pubblico e della magistratura nei confronti di chi poi semplicemente si tutela, tra l'altro dopo anni di squadrismo esplicito e rivendicato da parte della stessa organizzazione di Casa Pound Italia. Quindi insomma, questo penso che sia uno dei, purtroppo ti dobbiamo lasciare per una questione di tempo, però ovviamente questo penso sia un po' all'ordine del giorno di tutte le città d'Italia che hanno vissuto una, in questi giorni, una mobilitazione. Ripetiamo: Napoli, Parma, Torino, Reggio Emilia, non ultima, tra l'altro con una, insomma, a caratterizzarla sempre un forte, un alto tono pubblico, un alto tono di mobilitazione di massa, e quindi evidentemente si riducono, si inizia a ridurre quantomeno nei territori quegli margini di agibilità che vedevamo negli ultimi mesi erodersi. Penso questo spazio che si va liberando vada assunto un po' come un invito a riprendere l'attivismo, ovviamente non solo in chiave antifascista, ma in generale nelle lotte sociali e nella quotidianità. Ti ringraziamo per il contributo, insomma. Grazie a voi. Dai, un abbraccio. Un abbraccio a voi. Ciao. Tengo ganas de cogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla voy a arrancarte la rodilla. Desde las Antillas pa' todas las pandillas visitantes, sacándome palabras con la pista. Respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista. Ya yo me tragué 5 hojas de coca que me tienen botando espuma por la boca. Estoy de que si se tocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula. Rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso. El cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llega a la raya, te quemo en el Masaya. Y siquiera lo macho, te quemo en el Mombacho. ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en Picacho. Pinche, culero, gringo, gabacho, pausa. Yo soy un rebelde con causa, soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra, entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llévale aquí a mi guarida, jurado que el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Yo no necesito herramientas, lo mío es a mano. Yo te mato a lo artesana, a mano pelada me chupo a cualquier gusana, mientras me fumo un habano cubano. Quiero partirte los dedos de las manos, quiero rayarte como queso parmesano, quiero mandarte a volar y no en aeroplano. Hoy no te salva ni el Vaticano, tranquilo. E note dei Calle 13 in attesa del prossimo collegamento. Lo che necessito è media gialla de hilo. Ritmi latini, anche se da battaglia, comunque, per chi capisse il castigliano. Tu sientes ira, yo siento ira. Vamos a ver quién primero delira. Vamos a ver cómo tu cuello se estira. Vamos a ver al final quién respira. Este hombre cuando habla no es en vano. Que no me saquen pa' afuera lo de indio araucano. El ejército del pueblo en primer plano. El coro, pa' que suene bonito, no necesitamos piano. Dale, hey, hey. Llegale aquí a mi guarida, jurao que el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas en contra de mi vida, e il collegamento comunque ci dà modo, tra l'altro, di salutare, oltre che la voce consueta che sentiamo via telefono, anche l'altra voce che quest'oggi ci aveva dato la sola, come era successo a qualcun altro qualche giorno fa. Dopodiché, appunto, vi chiediamo ancora qualche secondo di pazienza, perché i potenti mezzi della diretta ovviamente non ci consentono subito di entrare nel vivo della discussione. Ad el trabajo, a Este es un vasco, un pana de España, Raisai, que tiene un mensaje bien fuerte y explica en rimas y en beats y en melodías lo que es ir por revolución y lo que significa tener un puño arriba y luchar por una conciencia y un mundo mejor. Ojo, el País Vasco no es lo mismo que España. Exactamente, el País Vasco es vasco y España es España. Calería, sí. Exactamente. Lo vamos con Raisai, mi gente, grábenlo. Esto es música pura y la que ponemos nosotros y nadie más se atreve a poner. Al tanto, atento, revolución lo llaman algunos y yo la religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire, luchemos por una América Latina libre. Così, intanto che si perde un po' di tempo, diamo qualche informazione musicale. Quello che state sentendo sono i Norte Apache, gruppo rap basco, tra l'altro scaricabile gratuitamente dal loro sito, insomma una piccola ricchezza della rete, è un rap molto militante, insomma gli vuole far piacere anche mettere da questi microfoni. La lástima de ver morir niños en Palestina. Sabes que mi saliva es corrosiva y no hay salida, no. Para que haya menos muertos en el Líbano. Hay personas que no existen, lenguas que no hablan, problemas que persisten cuando los perros ladran y los únicos derechos son el ser desechos. Buscando esperanza dedo cruzando el estrecho. Hablo de gente sin papeles viviendo en las calles. Y si tengo hambre puedo comerme tus leyes. O no me ves luchando contra el mal para no caer en sus redes. El bien me dejó tirado haciendo... E allora alle 12.39 ritorniamo in diretta, anzi ritorniamo in collegamento telefonico con una delle nostre voci più consuete. Ci senti intanto? Sì. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, con te, come abbiamo fatto anche nelle ultime settimane, andiamo a dare uno sguardo agli esteri, a quanto si muove negli altri paesi d'Europa, in quella che ormai è un po' la tua finestra autogestita, direi, in questa trasmissione. Se vuoi introdurre anche te. Ebbene sì, abbiamo liberato uno spazio squat anche dentro Maldestra. Ma non sentirtela così calda, guarda. Rischio lo sgombro. Vabbè, esatto. Okay, metteremo nel conto anche la resistenza. Sì, diciamo che ci sono una serie di notizie internazionali, alcune si legano, altre meno, ma che hanno, come dire, come sfondo, come sottofondo, un ragionamento di analisi sulle culture della destra radicale e quello che sta accadendo un po' in vari paesi europei. Visto che questo è lo spazio, insomma, dedicato da Radio Onda Rossa a questi argomenti, vale la pena, insomma, fare a mo' di sommario anche questo tipo di ragionamenti. Allora, il primo elemento riguarda una notizia di cui si sono occupati anche i media italiani, vale a dire le manifestazioni della scorsa settimana davanti alla sede della BBC, che ospitava nel Question Time, in un appuntamento di punta, diciamo, in cui parlano i politici britannici, l'eurodeputato e leader del British National Party, Nick Griffin. Perché è interessante questo elemento? Perché in qualche modo la BBC ha anticipato i tempi, nel senso che la legge sulla presenza dei politici in televisione nei media pubblici britannici prevede che nel momento in cui si abbia una rappresentanza al Parlamento di Westminster ci sia una possibilità di accesso anche alle trasmissioni, un po' come le nostre tribune politiche di un tempo. La BBC, diciamo, ha colto invece il segno che nella società britannica c'è una presenza della destra radicale che si sta istituzionalizzando, l'elezione, vale a dire, di due eurodeputati nelle recenti elezioni europee, anche da parte del British National Party, ha invitato Griffin, malgrado il British National Party stesso non abbia alcun eletto ancora in Gran Bretagna. Quindi c'è stato ovviamente un sano putiferio di dibattito nei giorni precedenti e poi c'è stata anche una manifestazione forte sotto la sede della BBC nelle ore che precedevano, diciamo, la presenza di Griffin in televisione. Griffin, diciamo, si è praticamente accercato di negare tutte le sue filiazioni più o meno neonaziste durante la trasmissione, ha cercato di presentarsi come un eroe qualche modo della working class britannica messa in discussione nella sua identità e nella sua quasi capacità di sopravvivenza dalla presenza, dall'afflusso degli immigrati, però diciamo ha ribadito quindi il carattere razzista del partito, anche se ha cercato di limitare un po' i danni. Certo, diciamo, questa è storicamente la prima presenza di un leader della destra radicale nella televisione pubblica inglese, è una prima volta, sicuramente si rischia che apra un, che questo rappresenti un precedente, è comunque diciamo una sorta di passaggio del tipo di quello che noi abbiamo conosciuto nel nostro paese molti anni fa, che poi insomma rende in qualche modo plausibili o come dire normali alcune posizioni sul fatto che vengono dette nell'arena politica pubblica, cioè quello che è accaduto da noi, che a un certo punto diciamo la destra radicale è stata sdoganata anche in questo ambito, avendo più volte accesso a tribune pubbliche, si trattasse della televisione, dei grandi giornali, eccetera eccetera, e quindi questo è un elemento che si segnala diciamo molto importante della situazione inglese. Nel frattempo i giornali inglesi sono pieni praticamente ogni giorno di articoli che riguardano lo stesso Griffin e il British National Party. Perché? Perché l'elezione di due eurodeputati, la raccolta fino al 10% di voti in alcune regioni, in particolare quelle del nord, colpite diciamo dalla crisi economica già vent'anni fa, ormai in alcune aree desertificate, insomma parliamo di città in cui si viveva prevalentemente di lavoro industriale e dove tutte le fabbriche nell'arco di 25 anni hanno chiuso e quindi, come dire, è cambiato anche il panorama sociale completo di quei territori, diciamo si moltiplicano le analisi. Il governo laburista ha deciso di stanziare dei soldi per le aree urbane in cui diciamo c'è l'emergenza di una sorta di questione bianca, perché è questo che viene posto in Inghilterra, cioè ci si rende conto che c'è una sorta di etnicizzazione del dibattito pubblico e che in qualche modo le zone in cui i poveri bianchi, cioè coloro che appunto i figli, i nipoti degli operai o dei minatori eccetera, sono rimasti identificandosi con un'identità di classe che però non c'è più, rischiano di veder in qualche modo cedere alle sirene della destra radicale, trasformando la loro identità sociale in un'identità di tipo etnico. E quindi c'è diciamo il governo laburista ha identificato alcune grandi aree urbane o suburbane in cui c'è appunto questa povertà di bianchi, quindi povertà non di settori legati all'immigrazione, ma diciamo appunto di famiglie che vengono per così dire dalla tradizione del movimento operaio, in cui si deve di fare investimenti sociali onde evitare che la destra radicale faccia man bassa di voti in quei territori. Diciamo che posta così in realtà sembra un'analisi che sembra legittimare pienamente diciamo le politiche della destra radicale, che dice i soldi si spendono per le minoranze invece che per gli inglesi puro sangue, insomma, calcolando che il British National Party è un partito che fino ad oggi non ha accettato rappresentanti non bianchi all'interno delle proprie file, quindi che ha posto un limite razziale all'iscrizione al partito, anche questo è un tema molto agitato in questi giorni nella stampa britannica, si capisce diciamo tutta la drammatizzazione che ha seguito questa elezione europea. Per la prima volta i fascisti sono entrati in un Parlamento rappresentante degli inglesi, ma non quello di Londra ma quello di Bruxelles, è come se si fosse scoperchiato diciamo un tombino e adesso gli effluvi malefici di questa cosa continuano a farsi sentire. Cioè uno dei temi costanti oggi del dibattito pubblico in Gran Bretagna è come dire che cosa succederà oggi, cioè se questo primo successo di Griffin è del British National Party annuncia futuri drammatici trionfi. In questo contesto abbastanza interessante come delle cose che da noi nel nostro paese siano considerate normali diventano assolutamente complicate da gestire e assolutamente denunciabili da parte diciamo dell'opinione pubblica democratica. Una in particolare, Griffin in questi giorni ha citato tra i referenti fondamentali del suo partito Roberto Fiore. Si sa come diciamo i latitanti di terza posizione, Fiore compreso, abbiano dopo la strage di Bologna intrecciato rapporti con l'allora National Front e l'allora destra radicale britannica. Nick Griffin viene appunto prima di diventare leader del British National Party dal National Front. Bene, Griffin ha pagato in qualche modo la cambiale nei confronti degli ex terza posizionisti che stavano ben pasciuti insomma in quel di Londra, in quella stagione, costruendo anche il loro tesoretto che poi si sono venuti a spendere nel nostro paese, in Spagna, con iniziative economiche, eccetera, eccetera. Bene, un giornale importante come l'Independent giorni fa diceva, beh, insomma, questo signore che oggi pretende di essere un democratico, pretende di parlare nelle arene pubbliche, cita Roberto Fiore, condannato per il terrorismo della fascista negli anni 80 in Italia, come uno dei simboli, dei riferimenti del proprio partito. Andiamo bene, ma insomma, diciamo che anche in questo si misura la differenza con la situazione inglese, nel senso che appunto, cioè, una vicenda come questa da noi farebbe ridere, e invece vale una pagina intera sull'Independent che dice, ma vi rendete conto quali sono i riferimenti internazionali e i riferimenti politici e culturali del British National Party? Eccoli qua. Questa è, diciamo, la prima notizia, una notizia abbastanza vicina a questo, ma che ha diciamo, a che fare con diciamo, lo spazio che c'è nella stampa da parte dell'estrema destra, riguarda, viene invece dalla Svezia, dove quello che è diventato il maggior partito della destra radicale svedese, vale a dire i democratici svedesi, la denominazione svedese non me la chiedete, è un'unica parola che tipo dice svedese, guarda, in realtà frate, qualcosa del genere. No, non ti volevo interrompere, ma lo sto per fare, per l'appunto, in realtà, perché siamo un po' stretti con i tempi, allora anche per capire se vale la pena tenerci qualcosa anche per la settimana prossima. Vado al volo con questa notizia, semplicemente che questo partito, che è stato escluso dalle elezioni politiche in Svezia, nel senso che non ha raggiunto nessuna percentuale che gli valesse un posto, sta pubblicando una serie di pagine a pagamento pubblicitarie su tutti i maggiori svedesi per costruirsi una pubblicità per le prossime elezioni politiche, e praticamente questa questione sta, diciamo, attraversando la società svedese, perché i giornali anche normali accettano questa pubblicità a pagamento in cui questo partito, che non ha preso il quorum per eleggere nessuno e che però è molto attivo, diciamo, socialmente, soprattutto nelle periferie, nelle grandi città, cerca di spiegare le proprie ragioni, e si è acceso un dibattito in Svezia sul fatto, un po' come la vicenda Griffin, se sia o meno lecito far parlare, diciamo, le destre radicali in spazi pubblici o in spazi che hanno a che fare con l'opinione, la formazione dell'opinione pubblica, come i giornali, o se invece bisognerebbe mantenere una sorta di cintura sanitaria, come si diceva un tempo, democratica, che tenga fuori, diciamo, le destre radicali, i neofascisti e razzisti dallo spazio pubblico. Queste questioni che da noi sono state bellamente superate ormai un decennio fa, invece continuano, come si vede, ad attraversare il dibattito democratico in Europa, e quindi in qualche modo ci dicono qualcosa anche sulla realtà italiana. Sì, infatti sono un po' le riflessioni che ci venivano anche a noi mentre ti ascoltavamo. Io non so, penso che anche per dare un po' più di respiro a quanto vi da dire, penso che c'era anche altro rispetto a quello che avevi in mente di dire. Comunque ne riparliamo la settimana prossima, se ci confermiamo questo appuntamento. Sì, manteniamo questo spazietto, diciamo, di notizie che poi appunto possono portare a ragionamenti dal fronte internazionale. Prendo atto, diciamo, che la nostra realtà di Scott dentro Maldestra viene già duramente repressa. Va bene. Ciao. Ciao, buona trasmissione. De potenza, Mike Libertà, Mike Libertà. Via Merfest e Pogo Cool. Mike Libertà. La sempre rifiutato. già mia moglie, vuoi vedere che tra poco avrò le doglie, sempre strada senza starci a preoccupare della notte o dell'età, troppe cose ancora devono cambiare, la sua rabbia è vera e siamo sicuri che prima poi tornerà, capirà che di belle non cambia mai, capirà che di belle non cambia mai. Se chiedo un lo per andare a tacchinare, scrivi in fretta dai, ci posso da beccare, era esempio da seguire e rispettare, ora dici a noi dovete maturare, sempre strada senza starci a preoccupare della notte o dell'età, troppe cose ancora devono cambiare, la sua rabbia è vera e siamo sicuri che prima poi tornerà, capirà che i belli non cambia mai, capirà che i belli non cambia mai. À moi commence par un génocide, ses pensées maussades. Romance, une revanche impossible. On est tous fils de la Bible. Blague et blague au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue. Ils brandissent la Bible et mettent Jésus. In chiusura, una trasmissione che dobbiamo dire veramente funestata dai collegamenti a singhiozzo. Avevamo previsto un'altra corrispondenza per parlare del 29 ottobre 2009 a Roma, un'iniziativa a un anno dalla cacciata dei fascisti da Piazza Navona, in attesa che si liberi il nostro corrispondente, diciamo, che per l'occasione appunto si fa, la voce si farà corrispondenza per l'occasione, andiamo a presentare noi questa iniziativa che nasce a partire dalla rete antifascista metropolitana, ma si allarga, ormai ha acquisito insomma una valenza ampia per buona parte del movimento in chiave antifascista ovviamente romano, per i movimenti delle lotte sociali, gli occupanti di casa, precari e movimenti GLBT. Tutti insieme in piazza dopo un anno dalla cacciata, da quella famosa cacciata dei fascisti, dopo la mattina, dopo l'aggressione squadrista la mattina al corteo dell'Onda, sotto al Senato, ancora una volta si trovano sotto al Senato gli studenti, le studentesse, i precari della scuola, i genitori contro la riforma Gelmini, si trovano ancora una volta sotto al Senato, in quell'occasione quelli che poi vennero giustamente definiti i burattini del potere e che la grafica del manifesto che vedremo a breve attaccato sui muri delle nostre città, della nostra città, riporta l'iniziativa dei burattini del potere di Casa Pound di aggredire il corteo. Leao venne insomma dopo aver lasciato purtroppo anche doloranti alcuni antifascisti, venne prontamente respinta una campagna poi mediatica che venne appunto scatenata a colpi di interrogazione, a colpi di scusate di anche di più che altro collage di carta stampata da parte dei fascisti, ben altra cosa rispetto a una controinchiesta piuttosto insomma che invitiamo tutti quanti a scaricare da TM Crew, che era il burattino del potere appunto video e cartacea. Una controinchiesta che ci racconta quelle che erano le evoluzioni dell'estrema destra in quei mesi, che si accreditavano come forza sociale quando cercavano di spostare su una questione puramente identitaria e generazionale quella che invece è stato uno dei più grossi movimenti studenteschi contro la devastazione della scuola pubblica da parte del ministro Gelmini e del governo di Berlusconi. Governo di Berlusconi che poi, lo ricordiamo, è il referente principale per questa struttura politica neofascista, per Casa Pound, che appunto non avendo non volendo avere legami col territorio, non essendo persone assolutamente strane, territori che vivono, si sono trovati poi a diventare i burattini del potere e gli agenti con le mazze tricolori che ci aveva promesso Cossiga un anno fa. E appunto dopo un anno i movimenti tornano a Piazza Navona, ci tornano dopo che nel clima di svolta autoritaria torniamo anche a dover denunciare una morte appunto per mano una bavure, la definirebbero in Francia, una mano per morte delle forze dell'ordine. E questa volta al reparto penale del Pertini, una morte che abbiamo raccontato a questi microfoni di un ragazzo di purtroppo non trovo qua i dati, però insomma parliamo di un ragazzo di una trentina d'anni, non di più, che è picchiato a sangue dalla polizia per una minuscola quantità di sostanza stupefacente di qualsivoglia natura, e si è appunto ci troviamo ancora una volta a piangere, una famiglia si trova a piangere una vittima della repressione, della paranoia securitaria. Finalmente attivato il collegamento con una voce che ci, insomma, uno degli antifascisti che possono dirsi promotori primi di questa iniziativa, a cui lascio l'onore di presentarla, ovviamente invitando tutte a partecipare innanzitutto alla riunione di questo pomeriggio. Esattamente, buongiorno a tutti e tutte, prima di tutto. E niente, stai già introducendo te questo ultimo episodio veramente scandaloso, e non fa che aumentare la voglia di denunciare questa deriva autoritaria che lavora proprio su più livelli. Per sgomberare ogni dubbio vorrei chiarire che non abbiamo, come già stato detto probabilmente, ma voglio ribadirlo proprio perché per non confondere idee, non c'è nessuna intenzione di fare una commemorazione di quella giornata di Piazza Navona, tutt'altro, è uno spunto che abbiamo colto proprio per riattivare l'attenzione su determinati problemi, su determinate derive che toccano un po' tutti quanti i livelli e diverse fasce sociali, quindi quello dell'autoritarismo. Ecco, ci interessa sottolineare questo legame stretto che individuiamo fra coloro che muovono le leve del potere e questi burattini, come abbiamo chiamati, che agiscono poi sulla strada. Nel manifesto, cosa che vedrete, penso sia spiegato in modo eccellente da famoso segnatore detto Zampetta, quello che è la situazione, come abbiamo riportato la situazione che si era svolta quel giorno, è una situazione che in realtà poi vediamo replicarsi in varie forme nelle nostre città, in varie città d'Italia tra l'altro. Quindi l'idea apposta è quella di fare un'assemblea, di fare una riunione aperta, cittadina, che coinvolga anche la città, per spiegare, per testimoniare quali sono stati diciamo, quegli eventi e qual è il clima che si è andato ad alimentare da un anno a questa parte, quindi dove da quella giornata che un po' per come molti studenti definiscono, che molti studenti definiscono uno spartiacque veramente, nel senso che da quel momento in poi comunque blocco studentesco e tutti gli addentellati nefasti che si porta presso hanno avuto vita molto più dura all'interno delle strutture scolastiche e gli studenti stessi hanno riniziato quest'anno le loro iniziative ponendo in modo molto deciso e chiaro la discriminante antifascista. Quindi parleremo di questo, parleremo dei vari modi in cui si declina l'autoritarismo nella nostra società, lanceremo dei nuovi appuntamenti proprio per mettere a punto una campagna condivisa da questi vari attori sociali in modo da poter diffondere in modo chiaro questo legame da scoprire, da mettere a nudo questo legame intollerabile fra i poteri forti, quelli che nascosti dietro le tende manovrano questi altri personaggetti che sono ben poca cosa in realtà, ma verso i quali dobbiamo mantenere alta l'attenzione, viste le loro recrudescenze. E quindi l'invito è, prima di tutto, oggi alle ore 17 nella Facoltà di Fisica La Sapienza per questa assemblea, l'ultima assemblea preparatoria, già se ne sono svolte altre in precedenza, ma questa qui diciamo dovrebbe mettere a punto proprio i dettagli dell'iniziativa. In questa occasione verranno distribuiti questi, devo dirlo, non vorrei dirlo io, ma sono veramente carini, ma sono usciti fuori, quindi vi invito anche a passare, se non altro per prendere, accaparrarvene qualche copia, che speriamo che stasera vengano attacchinati in ogni dove nella città. E poi l'appuntamento quindi principale è invece quello per il 29, sempre alle ore 17 in Piazza Navona, nel versante di Piazza delle Cinque Lune, dove avrà luogo questa iniziativa che comprenderà anche degli interventi performativi teatrali, vedremo alcuni video e molti interventi. Ecco, oggi proprio discuteremo anche di eventuali ulteriori submovimenti che potrebbero prendere corpo durante quella serata, è proprio alla luce dell'episodio che menzionavate prima, alla luce di questo ennesimo omicidio in carcere che veramente non possiamo più tollerare in silenzio. Quindi l'invito a tutti e a tutti è oggi alle 17 alla Facoltà di Sapienza e giovedì 29 alle ore 17 a Piazza Navona. Va bene, guarda, sei stato molto esauriente, sicuramente da questi microfoni andremo a raccontare anche in diretta quello che succederà appunto proprio a Piazza Navona giovedì. Nella giornata di giovedì sicuramente ci saranno appunto approfondimenti tanto sulla questione che dicevi prima, sull'ultima assurda morte in carcere, quanto su questa iniziativa specifica, quindi direi che ci possiamo risentire giovedì, insomma. Vabbè, vi ringrazio della pazienza e poi vi invito a diffondere il più possibile questa giornata, perché potrebbe essere l'occasione di ritessere una rete di antifascismo e di antiautoritarismo veramente necessaria in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando oggi. D'accordo, un abbraccio, ciao. Grazie mille, ciao ciao. E alle 13.05 va a concludersi questa trasmissione particolarmente travagliata con sulle note di Ma si teva craché. L'appuntamento con Maldestra, come di consueto, è ogni martedì alle 12.15 circa. Per riascoltare le passate trasmissioni c'è come sempre il blog maldestra.noblogs.org. Adesso ancora qualche istante di musica prima di lasciarvi al GR di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti e a tutti. Quand il arrive, nous saurons aussi nous défendre. Car je te doute que tout vient à boire à qui c'est à tort. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. J'attends des guénons.